Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti i gastronauti. Come ho detto, oggi parleremo di un tema caldo, parleremo di cucina molecolare. Per questo io do subito il numero verde per chi volesse intervenire durante la trasmissione: 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Ebbene, per dar corso a questa, diciamo, a questa trasmissione, mi sono così dotato di alcuni esperti scientifici. Avremo con noi Dario Bressanini, docente presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università dell'Insubria. Poi avremo anche Davide Cassi, docente di fisica della materia all'Università di Parma. Insomma, avremo degli scienziati con noi che cercheranno di spiegarci anche certi fenomeni. Bene, io vorrei cominciare subito nel dire che con una battuta così un po' forse tranchant, che la cucina molecolare non esiste, perché tutto è molecola e tutto è atomo. Quindi a questo punto anche tutte le altre cucine dovrebbero essere identificate sotto questo nome, solo che nel tempo, diciamo, c'è una certa tipologia di cucina che ha preso, secondo me, erroneamente questo, diciamo, questo nome, questa definizione. Così pure la parola chimica, che viene vista, diciamo, dal pubblico ogni volta con orrore. Magari si pensa a Mr. Jekyll, Dr. Hyde con le provette, ma in realtà è chimico, sono molte cose chimico anche naturali, quindi non è detto che tutto chimico sia sicuramente da buttare e da rifuggire. Certo, c'è una parte di chimica, vedremo gli additivi, che ce ne sono alcuni che sono positivi, diciamo positivi, non positivi, che non fanno male, altri probabilmente potrebbero anche nuocere. Quindi diciamo che andremo a vedere un po' questi fenomeni, vorremmo anche distinguere tra cucina molecolare e gastronomia molecolare. Voglio solo aggiungere che diciamo questa scienza, questa particolare branca della cucina nasce ad Erice circa 16 anni fa. Erice è un posto deputato ai grandi convegni sulla fisica del professor Zichichi, è stato il primo a organizzare queste cose appunto ad Erice, e durante uno di questi congressi 16 anni fa un gruppo di fisici presenti, tra cui il professor Curti ma tanti altri, hanno cominciato a dar vita all'osservazione del fenomeno delle cotture, del fenomeno di che cosa si mangia attraverso appunto le molecole, attraverso gli atomi, per poi apportare sicuramente delle modifiche che non sempre sono additivi chimici, sono anche date dall'osservazione, cambiando temperature e cambiando altri piccoli particolari che vedremo. Quindi iniziamo appunto questa discussione. Vorrei aggiungere che appunto in Italia e nel mondo ci sono alcuni chef che fanno un tipo di cucina che viene etichettato o bollato come molecolare, ci sono altri che non la fanno. Noi sentiremo sia gli uni che gli altri, anzi sentiremo molti diciamo famosi cuochi, chef, patroni di cucina tradizionale per sapere cosa ne pensano. Bene, allora cominciamo, lo ripeto, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. E buongiorno al professor Bressanini. Ciao Davide. Allora, io vorrei cominciare a capire cos'è un additivo di cui si parla tanto, additivi di quelli penso che si parli. La lecitina è un additivo? Sì, allora, gli additivi sono definiti dalla normativa europea come delle sostanze non meglio specificate, non, il termine chimico non ha molto senso perché, come tu hai detto, tutto è chimica. Quindi, e non si fa neanche menzione del fatto che siano, diciamo, di origine naturale o piuttosto che di sintesi. Allora, sono delle sostanze che si aggiungono a degli alimenti per una determinata funzione, per fare qualche cosa, che però non sono, diciamo, normalmente consumati come alimenti tali e quali. Ad esempio, la gelatina che usiamo per fare la panna cotta, l'aspic, che si usa in tutte le cucine da secoli, è un additivo. L'acido ascorbico, la vitamina C, è un altro additivo. Chiaramente ci sono additivi di questo tipo e additivi di altro tipo. L'acido solforico, che viene usato nell'industria alimentare per fare determinate cose, è un additivo, quindi non si può fare di tutta erba un fascio e trattarli come se fossero tutte delle cose pericolosissime. Questo assolutamente. Ecco, tu sei anche un appassionato di cucina, quindi sicuramente hai anche frequentato locali dove appunto i cuochi usano diciamo delle tecniche completamente innovative. Sì, certo. Quindi, e cosa ne pensi di questo? Allora, io penso che sia assolutamente legittimo provare a fare della sperimentazione in cucina. Tu prima accennavi alla lecitina. La lecitina di soia è un additivo, nel senso che si usa per determinate funzioni, si compra al supermercato, in un qualsiasi supermercato, e li utilizzano persone, ad esempio, perché pensano che si possa ridurre il colesterolo e altre cose. Serve semplicemente per emulsionare, per fare diciamo una miscela di due liquidi o due sostanze che normalmente non si mischierebbero. Quando facciamo una maionese a casa, utilizziamo le proprietà della lecitina, che naturalmente è contenuta nel tuorlo dell'uovo, per far mescolare un liquido acquoso con dell'olio, con del grasso. Ecco, non so se facciamo in tempo, perché è un minuto, poi dobbiamo passare la linea alla viabilità, ma mi è già arrivata una SMS, mi chiede: per favore, potete parlare della metilcellulosa? Allora, la metilcellulosa è uno degli additivi, delle sostanze che vengono utilizzate per fare delle gelatine, sostanzialmente. La gelatina che normalmente si usa, e che si usa da secoli, ha dei problemi, per cui per esempio non resiste ad alte temperature, o se nel freezer o raffreddata si disgrega. E allora col tempo sono state sviluppate altri tipi di gelatine, l'agar-agar per esempio, o la metilcellulosa. La metilcellulosa ha un'origine, come dice il nome, vegetale, deriva dalla cellulosa. La cellulosa però non si scioglie in acqua, e allora è stata modificata, ce ne sono varie di modifiche per poterla utilizzare. Non è vero che è stata, diciamo, come ho sentito in qualche trasmissione, che è stata vietata, per esempio in Australia è stata vietata l'etilcellulosa, che è un'altra sostanza che ha un nome simile, ma non è la stessa cosa. Come distinguere tra alcol etilico e alcol metilico? Uno è nel vino e l'altro è velenoso. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di gastronomia e cucina molecolare, di additivi, di chimica. Bene, sono già arrivate moltissime SMS. Bene, abbiamo già risposto, visto, ecco, ma pubblicità una panna vegetale. Beh, io leggo una SMS che mi dice: molte volte il problema riguarda la reperibilità dei prodotti, vedi l'azoto liquido. Bene, comunque risponderemo anche dell'azoto liquido, anche perché abbiamo con noi, l'ho annunciato prima, il professor Davide Cassi, docente di fisica della materia all'Università di Parma. Buongiorno Cassi. Ciao. Allora, Davide Cassi, per la storia, anzi per la cronistoria, è stato colui che ha iniziato il processo della cucina, della gastronomia molecolare in Italia. Ha scritto un libro assieme a Ettore Bocchia, ma è stato colui che scientificamente, diciamo, ha per così dire iniziato questo cammino, anche perché credo che fosse ad Erice quando appunto è nato questo movimento. E allora io gli faccio una domanda molto semplice, molto bizzarra. Ma Davide, sei pentito di aver portato questo verbo in Italia? No, assolutamente, è stata una bella fase pionieristica ed emozionante. Adesso la parola molecolare è stata utilizzata troppo in contesti troppo diversi, per cui da anni ormai l'abbiamo abbandonata in tanti. Volevo far notare, tra l'altro, che se tu chiedi a Ferran o a Eston se la loro cucina molecolare, si offendono, nel senso loro dicono: questa è la nostra cucina. Molecolare è stato un termine di passaggio. Il congresso si è chiamato gastronomia molecolare e fisica per un caso abbastanza curioso che ha ricordato Harold McGee nel suo sito. All'inizio doveva chiamarsi scienza e cucina, poi pare che Azzichichi suonasse troppo frivolo, voleva qualche termine più altisonante, per cui in modo quasi scherzoso si è detto: vabbè, facciamo gastronomia, fisica e molecolare. Tutto nasce da lì, quasi come un gioco. Quando abbiamo iniziato a fare cucina sperimentale, utilizzando la scienza, volevamo liberarci un po' da questa parola gastronomia, quindi abbiamo iniziato a dire: facciamo cucina molecolare. Adesso siamo arrivati alla cucina scientifica, che è molto più generale e, se vuoi, democratico. Ecco, però sono successe altre cose nel frattempo. Ecco, rimani con noi perché abbiamo già un radioascoltatore, Richeldi da Modena, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Io chiamo da Modena, a parte la coincidenza di essere nella stessa città del nostro concittadino illustre Massimo Bottura. Io sono un medico e volevo portare una mia preoccupazione personale, cioè quella dell'estrema disinformazione che questo tipo di informazione, pseudoinformazione attraverso la televisione fa della salute alimentare o della salute, diciamo, più in generale dei cittadini. Ad esempio, io ho incontrato parecchi pazienti, parecchie persone preoccupate addirittura, che mi hanno chiesto: ma queste lecitine sono tossiche, fanno male ai bambini? Volevo ricordare che ad esempio la lecitina è al momento in studio per essere un farmaco per abbassare il colesterolo ed è in sperimentazione clinica già da diversi anni, probabilmente la troveremo naturalmente modificata ma nelle nostre farmacie per aiutarci ad abbassare il colesterolo. Ora io volevo condividere con lei e con i suoi spettatori la mia preoccupazione rispetto alla disinformazione e ai danni che possono essere fatti da questo tipo di trasmissione di informazioni totalmente non controllate o comunque su un argomento così sensibile quale quello della salute alimentare dei cittadini. Senta, dottore, diciamo facciamo tutto un'erba un fascio di quello che viene fatto dell'informazione scientifica in generale, perché molte volte leggiamo sui giornali che l'università XY ha fatto uno studio, 15 giorni dopo arriva da un'altra parte un'altra università che ha fatto un altro studio che smentisce quello precedente. Io credo che dovrebbe essere un controllo, ma non un controllo non solo televisivo ma ovunque, che questi studi che escono dovrebbero essere, secondo me, controllati soprattutto dal punto di vista scientifico, perché altrimenti la gente non capisce più niente. Vediamo tempo fa la pasta, vediamo la carne, addirittura le cose più semplici. Quindi sono d'accordo con lei che bisognerebbe che ci fosse un controllo maggiore sull'informazione a 360 gradi. Ma sentiamo Salvatore da Catanzaro, un altro radioascoltatore. Buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ospiti. Io volevo porre, se possibile, una domanda e fare una piccola riflessione. La riflessione è di natura culturale, dico, ognuno di noi poi si pone rispetto all'utilizzo degli alimenti e al gusto in maniera assolutamente personale, quindi voglio dire, questo tipo di cucina che è definita impropriamente molecolare non credo sia così appetibile per la maggior parte delle persone. E l'altra domanda riguarda più in generale un problema così sociale e culturale. Se questo tipo di ricerca comunque sulla cucina, sugli elementi che compongono gli alimenti, possa in qualche modo aiutare il problema della disparità che esiste nel mondo. Cioè, se il professore Cassi o qualche altro esperto in studio mi può dare una risposta su questo. Nel senso, la ricerca può contribuire ovviamente a produrre alimenti a basso costo, ecco. E Cassi, vuoi rispondere tu a questa domanda? Profondo e interessante in realtà. È già da tempo che con enti vari stiamo studiando questo tipo di problema. Ti faccio un esempio. Quando ci sono delle emergenze, adesso non vorrei citare il terremoto che è troppo attuale, ma ci sono delle emergenze per cui è necessario nutrire molte persone disponendo di pochi mezzi, soprattutto non avendo a disposizione fuochi, fornelli, frigoriferi e via dicendo, sarebbe fondamentale avere pronti dei viveri che si conservano a lungo anche a temperature non basse e che siano nutrienti. Ecco, il punto è questo, non devono essere solo nutrienti, devono essere anche piacevoli, buoni, perché altrimenti l'aspetto psicologico distrugge queste povere persone. Quindi in questo caso la cucina scientifica viene estremamente in aiuto. Se non scordiamoci che non è che mangiamo solo per nutrirci, anzi, se tu sei qui a fare questa bellissima trasmissione è perché la gente piace mangiare per provare anche un piacere estetico. Davide, rimani con noi comunque anche per il resto della trasmissione, perché magari ti chiamerò in ballo moltissime volte. Bene, devo dire che ho un sms che può essere interessante e chiedo a Bressanini. Sono un medico, amo leggere e chiedo per cortesia letteratura su cucina molecolare. È un medico di Verona, mi sembra. Bressanini. Beh, sulla cucina molecolare posso suggerire il libro scritto dal collega Davide Cassi e da Ettore Bocchia. Più in generale, diciamo, il punto di riferimento internazionale è sicuramente Hervé Thys, che è un chimico fisico come me, e diciamo, è quello che almeno in Europa ha popolarizzato e divulgato questa cosa. Negli Stati Uniti un'altra figura importante è Harold McGee, che è un giornalista che si occupa di divulgare, diciamo, la scienza della cucina. Entrambi hanno scritto dei libri. Insomma. Poi dopo magari su Tis chiederò qualcosa a Cassi. Carlo dalla provincia di Belluno. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Allora io vorrei chiedere, questi cosiddetti miglioratori che vengono usati nel pane, no? 30 anni che vengono usati, si chiamano alfamilasi. Che sostanze sono? Cioè io l'ho usato e capito, quasi voltavo dritto a schiena, insomma, perché non so. Lei vuole sapere cosa sono gli alfaminasi? Sentiamo. Le alfaminasi che vengono usate quotidianamente nel pane, nella panificazione. Certo, Cassi, vuoi rispondere tu? Sarebbe più una domanda per un chimico, per cui sì, certo, Bersanini. Sì, beh, allora, prima di tutto non c'entrano con la gastronomia molecolare, sono miglioratori, l'alfa-amilasa è un enzima, cioè è un enzima, una sostanza che è naturalmente presente nelle farine e in tante altre cose, e serve per, diciamo, disgregare l'amido delle farine per poi farlo, diciamo, tra virgolette, mangiare agli altri tipi di lieviti. Vengono aggiunti, vengono migliorati per migliorare le proprietà delle farine che a volte, diciamo, come materia prima di partenza non sono propriamente, diciamo, al top, che diciamo così, non sono assolutamente diciamo tossici, okay? Perché diciamo si dà un aiuto alle farine, a volte si utilizzano per migliorare le proprietà di farine che magari non sono proprio di alta qualità. Bene, sentiamo, abbiamo con noi ora credo il rappresentante numero uno della cucina italiana, sicuramente che non ha niente a che fare con la cucina molecolare o con la cucina d'avanguardia o d'altro, che è il patron del ristorante dal pescatore Canneto sull'Oglio, Antonio Santini. Buongiorno Antonio. Ciao e buongiorno a tutti. Senti Antonio, ma tu hai mai mangiato da un cuoco molecolare? Io ho mangiato spesso da cuochi che vengono definiti molecolari perché sono grandi cuochi e si mangia bene. Ma volevo dire una cosa, che dobbiamo ringraziare il professor Bressanini e il professor Cassi perché con una chiarezza straordinaria hanno parlato di ciò che sanno. E questo è bellissimo, qui dobbiamo fare un passo indietro come hai detto tu. Ognuno deve parlare di ciò che conosce. Perché se parla di cose che non ha mai di cui non ha mai sentito e non conosce, non ne andiamo fuori. Noi nella cucina del pescatore o al pescatore abbiamo due tecnologi. Uno è Giovanni, che si è laureato a Piacenza, e l'altra è la fidanzata di Giovanni, che è Valentina. Questo per dire che non si può, per fare grande cucina ci vogliono certamente grandi prodotti selezionati con sapori veri e autentici, ma non è sufficiente. Poi serve un cuoco, una cuoca capace, intelligente, con una dose di sapienza, di creatività, di voglia di sperimentare, di misurarsi con i prodotti per estrapolare il meglio. Insomma, tutto deve essere gestito poi con una dose importante di etica e di tecnica e di esperienza, per cui non si può prescindere da nulla, né per fare la cucina ipercreativa né per fare la cucina tradizionale del territorio che si deve comunque evolvere. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, sine qua non, voglio dirlo per una volta, voglio tornare all'antico. E allora sentiamo Giuseppe da Milano, buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno, mi sente? La sento benissimo, chiaro e forte. Benissimo, niente, io volevo intervenire per quanto riguarda quello che state parlando della cucina molecolare. Io sono un imprenditore della ristorazione, sì. Abbiamo un gruppo, il nostro gruppo ha 4 ristoranti a Milano e provincia. Abbiamo introdotto un nuovo percorso per quanto riguarda sensibilizzare l'alimentazione ai nostri clienti. Mi sono accorto, prima sperimentando su me stesso, che i ristoratori, io ho 20 anni che faccio questo lavoro, cosa succede? Siamo uno tra i canali dove diamo da mangiare alla gente, abbiamo una responsabilità enorme e abbiamo pochissima cultura di quello che è l'alimento in sé, quindi cosa comporta l'alimento quando lo introduciamo nel nostro organismo. Quindi con questa cosa la faccio breve adesso, con questa cosa che ho fatto degli esperimenti, cioè ho conosciuto prodotti e tutto, e poi in collaborazione con un nutrizionista abbiamo fatto un programma che noi diamo, un libro che è Lo Chef Promotore di Salute e Benessere, perché lo chef non deve solo saper assemblare bene i cibi, far da mangiare bene, ma deve sapere soprattutto cosa comporta l'alimento, quindi qual è l'alimentazione intesa proprio come alimento. Noi all'interno del nostro gruppo abbiamo inserito questi, quindi abbiamo inserito sì, i cibi con farine integrali, con sensibilità, e vengono, come si può dire, segnalati sul menu questi cibi che sono inerenti a questo programma alimentare. Bene Giuseppe, ma mi sembra che sia la stessa cosa che sostiene Antonio Santini, cioè che anche chi fa cucina normale, cucina tradizionale, chiamiamola come vogliamo, ormai si deve documentare su tutto, soprattutto sul prodotto e anche così dalle caratteristiche del prodotto. Quindi mi sembra, secondo me, che non dovrebbe farlo solo lei, lo dovrebbero fare in tantissimi questo percorso. Comunque grazie Giuseppe del suo intervento. Sentiamo Angela dalla provincia di Treviso. Buongiorno Angela. Buongiorno signor Davide Paolini, sine qua non innanzitutto. Bene, sempre. trasmissione che aspetto da tanto per complimentarmi con lei, perché è uno dei migliori giornalisti. Lasciamo perdere, signora, andiamo alla domanda. No, è importante, sì. Perché io vedo che lei è molto rispettoso degli ascoltatori. La domanda è questa: è da tanto che voglio che qualcuno mi spieghi che cosa si mette prima negli impasti, tipo pasta frolla o anche altre cose. Si mette prima l'uovo o prima il burro o il grasso? E poi perché? Che reazioni chimiche ci sono? Perché in fondo la cucina è chimica e fisica, no? Sì. E no, io la interpreto così. E desidererei capire veramente la successione di questi... Bene. Elementi da introdurre nel mio impasto. Grazie, guardi, le faccio rispondere da un professore, da Davide Cassi, che è anche un grande cuoco. Davide, vuoi rispondere? Sì, è una bella domanda, che effettivamente nelle ricette l'ordine in cui si mettono gli ingredienti, ovvero il processo, è spesso molto molto più importante che non le quantità degli ingredienti o la loro natura. Detto questo, nella pasta frolla noi vogliamo evitare la formazione del glutine, che è quella specie di rete gommosa che permette alla pasta di lievitare. Per evitare la formazione del glutine bisogna evitare che la farina venga il più possibile a contatto con l'acqua. Quindi mettiamo la farina, se volete lo zucchero, poi quello si può mettere dopo, e poi mettiamo il burro, l'uovo si mette per ultimo, in modo tale che l'uovo che darà la tenuta non leghi con l'acqua che contiene con la farina. Quindi la cosa importante è tenere la farina ben isolata da tutto il resto attraverso il burro. Bene, grazie. Io voglio tornare ad Antonio Santini, perché anche in cariche internazionali in alcune associazioni importanti, per cui è sempre a contatto anche con i colleghi, non solo italiani ma quelli all'estero. Volevo chiederle se questa, diciamo, sensibilità per scoprire i prodotti, per scoprire cosa si mette sul piatto, è un fatto che si sta sviluppando a livello della ristorazione mondiale. Beh, sicuramente. Tu stai parlando dell'attenzione ai prodotti? Certo. Ma devo dire che noi abbiamo sempre guardato alla Francia come il paese dove tutto era rispettato, i cuochi erano rispettati, i prodotti sono rispettati. Recentemente, venerdì scorso, è stato dato a Canale d'Alba un premio a Ducasse e in quell'occasione l'ho incontrato, ho parlato con lui, mentre mercoledì scorso all'Institut Paul Bocuse sono stato, dove c'era una tavola rotonda che si chiama Innovazione, c'era Joël Robuchon. E sempre di più noi vediamo quanto i francesi ammirino i nostri prodotti, i prodotti italiani, e continuano a dire, all'inizio pensavo fosse un modo per essere gentili, in realtà loro ammirano tantissimo il nostro rispetto, la nostra salvaguardia dei prodotti, i nostri giacimenti gastronomici, come li chiami tu, e questo ci fa immensamente piacere, cosa che sembra che da loro sia stato un po' cancellato, sia dimenticato. E partendo da questo invito e da questo atteggiamento dei grandi cuochi francesi e da tutto il mondo, anche Ferrand Adrià ha espresso un'espressione estremamente positiva sui nostri giacimenti alimentari, giacimenti dei prodotti, credo che dobbiamo essere vigili, continuare ad avere un atteggiamento positivo, a proteggere i nostri allevatori, i nostri produttori, perché è una cosa che ci porterà avanti. Certamente non è sufficiente, come ho detto prima, avere dei prodotti, dei grandi prodotti per fare grande cucina, poi bisogna avere uno chef che abbia una dose importante di capacità, di onestà intellettuale, di genialità, e poi faremo anche grande cucina, ma ci vogliono, la partenza sono anche i grandi prodotti. Bene, grazie a Antonio Santini, ti ringrazio, e devo dire che sto ricevendo moltissime SMS e che tutti vorrebbero, così diciamo, fare polemica su alcune trasmissioni, ma io non accetto questo tipo di invito, semplicemente perché quando mancano gli interlocutori a cui dare la parola, che vengono chiamati in causa, non è assolutamente giusto. Devo dire che c'è una divisione netta sulla cucina molecolare, chi spara anche, permettetemelo di dire, delle cazzate, e invece ci sono così altri che sono dei fans, e forse sono dei fans assoluti anche loro, forse vanno oltre i limiti, quindi vogliamo tornare alla normalità e spiegare fenomeno per fenomeno. Io chiedo, allora, abbiamo un altro radioascoltatore, Domenico da Trento. Buongiorno Domenico. Sì, buongiorno. Io volevo solo ricordare una cosa, che la chimica ha sempre dato molto alla cucina. Ad esempio la birra, un alimento che tutti conosciamo, è stata proprio la birra che ha dato spunto a un biochimico per introdurre nella letteratura il concetto di pH, no? Tutti sappiamo il pH misura l'acidità o la basicità dei liquidi, delle soluzioni, degli alimenti. Bene, è stato un biochimico che lavorava alla fabbrica Carlsberg di Copenaghen a introdurre questo concetto. Quindi questo per ricordare appunto la stretta correlazione tra chimica e cucina. Bene, grazie a Domenico da Trento. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, visto che abbiamo un radioascoltatore che appunto che ha tirato in ballo la chimica, io voglio chiedere a Bressanini, si è parlato di lecitina, si è parlato di agar agar se non erro, volevo chiedere, ci sono degli additivi veramente da mettere al bando? Ecco, perché anche questo secondo me è giusto saperlo, è giusto che venga dichiarato quando ci sono queste tipologie, uno può mangiare o non mangiare quel piatto. Allora, tutti gli additivi che si utilizzano e sono previsti dalla normativa europea sono stati, diciamo, controllati per quel che riguarda la loro possibile tossicità dall'EFSA, l'autority che c'è a Parma. È chiaro che ogni additivo ha il suo specifico ambito di applicazione e quindi i suoi dosaggi. Ci sono degli additivi, per esempio i conservanti, non so, la formaldeide, i nitriti, che di cui spesso sentiamo parlare nei salumi, così, che hanno determinati dosaggi oltre i quali non si può andare allegramente. Però, diciamo, le cose che si utilizzano nella cucina molecolare sono sostanzialmente gelificanti, emulsionanti e addensanti. Sono cose che non sono da mettere nella stessa categoria appunto della formaldeide. La farina, a me piace ricordare che la farina di semi di carrube, che è un qualche cosa di tradizionale che usano i gelatai tradizionali, è un additivo E410 della normativa europea. Il fatto di avere un codice non significa assolutamente che sia in qualche modo pericoloso, insomma. L'agar agar ci sembra strano perché siamo abituati a usare la gelatina da anni, che è l'E441, e nessuno si stupisce. L'agar è una cosa un po' più strana, per cui E406 è l'agar agar, che però viene estratto dalle alghe, non è una cosa stranissima, per cui bene, abbiamo con noi un altro importante chef che sicuramente non è molecolare. Buongiorno Fulvio Pierangelini. Buongiorno a voi. Fulvio, ma secondo te ci sono appartenenze, cucina molecolare, cucina d'avanguardia, cucina tradizionale, o un cuoco è un cuoco? Un cuoco è solo un cuoco. E poi ci sono dei sistemi di come uno intende la cucina, come uno intende arrivare a un risultato attraverso un prodotto. Quindi sono delle esplorazioni all'interno del prodotto che ognuno fa come preferisce. Io ho detto sempre che nel momento in cui c'è onestà intellettuale e conoscenza, sono sicuro che il percorso sarà virtuoso. Io non sono un molecolare, però collaboro continuamente con il professor Cassi, e con il professor Cassi siamo riusciti ad avere delle espressioni, direi, molto interessanti. Lui praticamente ha dato risposte scientifiche alle mie emozioni. Insieme abbiamo fatto cose delle quali siamo entrambi orgogliosi e fieri, e abbiamo usato la scienza solamente come conoscenza e non come prendere degli elementi per facilitare alcuni processi, e con il massimo della gioia abbiamo scoperto, specialmente io, che senza la manualità a volte solo la scienza non riesce ad arrivare. Quindi diciamo che l'importanza rimane sempre fondamentale, l'importanza del cuoco. Ma il cuoco è centrale, il cuoco è sicuramente centrale. Non è centrale nel momento in cui prende delle scorciatoie e usa dei prodotti industriali. Io ho qui davanti a me un fondo, mi piacerebbe leggere un fondo comprato per gioco, e se volete vi leggo gli ingredienti, ma comincia con acqua, sale, maltodestrine, estratto di lievito, aromi, caramello di zucchero, amido di mais modificato, 2% di estratto di carne, aromi naturali, polvere di cipolle, grasso di bue, spezie, stabilizzante e ciantana. Sale 19,7 grammi per 100 grammi. Queste sono le cose che secondo me andrebbero controllate. Bene, grazie. Chiaro, chiaro, sintetico. Ti ringrazio perché è molto illuminante il tuo intervento, ma anche la tua prefazione che hai fatto a questa riedizione di Apicio, che inizi proprio in questa maniera con un altro prodotto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare appunto di cucina molecolare, gastronomia molecolare o affini, chiamiamoli così. Sentiamo velocemente un sacco di radioascoltatori, Giuseppe da Genova, Carlo da Roma, li prego di attendere, poi vediamo se riusciamo a, diciamo, esaudire tutte le telefonate. Sentiamo Cazzamali dalla provincia di Cremona, buongiorno, se non erro un grande macellaio, vero? Buongiorno a tutti. Io stavo ascoltando la tua trasmissione e non ho potuto non fare un colpo di telefono. Soprattutto anche perché sentendo sia il signor Antonio che Fulvio e anche gli altri tuoi ospiti, tu sai che io sono parte in causa, tra virgolette, per quanto riguarda una fornitura di materia prima sia a Massimo che a Ettore soprattutto. Io posso dire una cosa sola, che non ho mai avuto richieste di prezzi, ma ho sempre avuto richieste di una grande materia prima. Allora la mia riflessione è semplicissima, se veramente premetto che non sono riuscito a seguire tutte le varie fasi su, sulla televisione di quanto è stato detto, però ho letto qualcosina e mi sembra ci sia stata veramente un'aggressione e delle scorrettezze proprio da parte un po' di tante persone. Comunque io posso testimoniare personalmente che hanno sempre chiesto e hanno sempre cercato una grande qualità. Allora la riflessione è molto semplice: se veramente con tutte queste manipolazioni si va a truccare quello che è il gusto e il sapore, per quale motivo si va a cercare una grande materia prima? Bene, grazie, grazie a Franco Cazzamali, grazie. Abbiamo con noi un altro chef importante, un altro chef italiano, Davide Scabin. Buongiorno Davide. Buongiorno a tutti, non dico Davide perché oggi siamo in tanti. Crea della confusione con tutti i Davide che c'è. È vero. Ma io volevo chiederti, ma tu nella tua evoluzione di cuoco, sei mai stato molecolare? Guarda, io penso che vorrei copiare il primo grande chef molecolare che c'è stato sulla faccia della Terra. Più o meno risale penso a 4 milioni di anni fa, quando dopo un fulmine scatenato sulla Terra, che si è acceso un fuoco e un primate ha incominciato ad arrostire qualcosa. Quello secondo me è stato il primo grande cuoco molecolare che c'è stato sulla Terra e io vorrei rifarmi a lui. Bene, sembra appunto le scoperte, tu dici le scoperte che si fanno magari incidentalmente anche cucinando? Ma io penso che oggi bisogna semplicemente un po' fare chiarezza su quello che siano i termini. Forse è vero che è stato un po' abusato il termine quando è stato inventato questo termine, non inventato, ma è stato comunicato nel molecolare qualcosa di diverso. Il molecolare è qualcosa che invece trasforma semplicemente la materia, quindi vuol dire cucinare, quindi vuol dire semplicemente trasmigrare in una ricerca nel nuovo, nel diverso. Questo è quello che semplicemente a me interessa. Il movimento della cucina, e non sono io che lo dico, ma uso delle parole di un grande maestro della cucina italiana, che è Gualtiero Marchesi, perché è lui che ha detto: mi interessa il movimento della cucina. A me interessa la stessa cosa, semplicemente oggi ci stiamo accavallando un po' su dei termini e però c'è qualcuno che sta usando un alzo zero nello sparare e nel fare dei giudizi. Quando io sento che viene associato a molecolare, due punti, chi non sa cucinare, chi non sa rimanere nel ristorante tutti i servizi perché è in giro a fare congressi, quelli lì che sono agli alti vertici delle guide gastronomiche italiane, comincio un attimino, scusate i termini, a incazzarmi. Poi devo avere un attimino un po' di self-control, mi devo trattenere e quindi tiro un respiro e dico: signori, di mezzo ci può essere un po' di invidia, ci può essere un po' di altre cose, ma è come andare a chiedere a Picasso se sa fare un disegno, se sa disegnare una mano. A volte ci sono delle scelte. Dopodiché si sta aprendo un dibattito molto interessante, se all'interno di grandi ristoranti, di high level della gastronomia italiana, forse bisogna iniziare a dichiarare se ci sono degli additivi alimentari. Su questo termine concordo sul fatto che bisogna informare il consumatore, perché ci sono gli additivi alimentari classificati per categoria E, quindi a rischio, dove non si dice che sono tossici, però che sono a rischio, per i quali c'è anche il glutammato monosodico, il dado, cioè, però noi siamo remori che il dado Maggi dal 1930 ha fatto pubblicità. Bisogna incominciare un attimino a rendersi conto se oggi c'è un'evoluzione e stiamo ad arrivare ad un punto dove forse la cucina deve approdare un termine che è la deontologia del gusto. Ma siccome è anni che dico che i creativi devono avere la morale del gusto, secondo me sfondiamo una porta aperta. Grazie Davide, e abbiamo con noi i nostri radioascoltatori, rimanete in linea, vediamo se gliela faccio sentirvi. Abbiamo con noi Ettore Bocchia, credo uno dei rarissimi cuochi che ci sono in Italia, che si è sempre definito molecolare, anzi ha cominciato con Davide Cassi una lunga avventura. E allora gli chiedo, Bocchia, ma cosa c'ha di diverso un cuoco molecolare? Buongiorno a tutti, buongiorno Davide. Cos'ha di diverso un cuoco molecolare? Penso che sia stato ben espresso nella trasmissione. Il professor Cassi ha spiegato benissimo quelli che sono i procedimenti della pasta frolla, spiegandola alla signora. Fulvio Pierangelini ha detto che senza la scienza non sarebbe riuscito ad arrivare a determinati risultati. Ovviamente c'è sempre bisogno del cuoco per trasformare le idee e la gastronomia e gli studi e metterli in pratica. Io con il professor Cassi ho cominciato a lavorare in tempi non sospetti, abbiamo tirato fuori un menù di cucina molecolare, ovviamente con delle tecniche innovative all'epoca che adesso sembrano di era giurassica, perché parlare di azoto liquido oggi è come parlare dell'acqua calda, insomma, però 5 anni fa, quando lavoravamo sulla gelificazione degli amidi, sul mantenimento dei gusti dei vegetali, sulle fritture nello zucchero, sulla denaturazione delle proteine dell'uovo, all'epoca insomma era sulla meringa italiana, la nuova meringa italiana. All'epoca eravamo veramente i pionieri, come ha detto il professor Cassi. E oggi io difendo cucina molecolare perché noi abbiamo ancora in menù in ristorante questo menù di cucina molecolare datato 2002. Di conseguenza, cioè, io cucina molecolare la definisco come è stata definita oggi, una cucina fatta con prodotti di altissimo livello, una conoscenza scientifica applicata, e di conseguenza io difendo questo termine perché nel nostro libro che abbiamo scritto insieme abbiamo messo un manifesto della cucina molecolare dove scrivevamo che non venivano utilizzati additivi chimici o coloranti chimici o prodotti di sintesi. Bene, grazie, ti ringrazio Ettore, perché ho 30 secondi, però siccome ogni trasmissione, ora ho visto di successo, si chiude con delle vignette, io vorrei chiedere a Bob Noto, che è un noto gastronomo internazionale, di raccontarci la vignetta brevissimamente che ha mandato a tutti i suoi amici. Ho mandato una foto in cui veniva rappresentato il mio sepolcro, perché essendo anni che frequento le tavole di Ferran Adrià e di cuochi che usano prodotti analoghi, mi ero reso conto che non potevo essere sopravvissuto, quindi l'unica soluzione era che ero morto senza accorgermene, e chiedevo scusi tutti per il disturbo. Approfitterei di questi 15 secondi che mi rimangono, perché non abbiamo parlato di quantità. Mettiamo che questi additivi siano a rischio, non sono uno scienziato, quindi non entro nel merito. Una ricetta di Ferran Adrià, ostriche con perle di acqua di mare e crema di prosciutto, per 10 persone prevedono 0,2 grammi di gomma xantana e 2 grammi di alginato. Basta. Bene, grazie Bob, mi spiace non darti più spazio, ma volevo tenerti in finale e mi è rimasto poco tempo per la tua vignetta, visto che appunto, come dicevo, ormai le vignette vanno di moda e creano anche abbastanza così caos e polemiche. Grazie, io ringrazio tutti, mi spiace per Giuseppe da Genova, per Carlo da Roma, per tutti i radioascoltatori che hanno mandato degli sms a cui non posso rispondere perché veramente è stato tutto molto stimolante. Io vi ringrazio tutti, ringrazio Bressanini, ringrazio Cassi che è rimasto al telefono fino ad ora, ringrazio i radioascoltatori, vi do appuntamento domani, domenica alle 10, perché questa trasmissione viene data in replica e poi ancora con la pillola ogni giorno alle 18.30 e il Wine Bar sempre domani domenica alle 12.15-12.20. Buon weekend da Davide Paolini.